Salva Danaio. Dodici e 13 minuti, inizia un'altra puntata di Salvadanaio. Quanti ricordi? 11-12 anni fa, anzi 99, sono quasi 14 anni fa quando iniziò la radio e chi vi parla iniziò proprio Salvadanaio. Chiaramente sostituisco solo momentaneamente, in maniera assolutamente inadeguata, Deborah Rosciani. I temi di questa giornata economico-finanziaria prima di tutto e poi i temi di questa puntata di Salvadanaio, con voi appunto Sebastiano Barisoni. Dicevamo già nel corso del GR dell'asta dei bot di oggi, è andata bene nonostante i rendimenti un po' in rialzo, sempre sotto l'1%, non ai minimi storici come a maggio, quando lo Stato ha dovuto offrire solo lo 0,7% di rendimento per trovare compratori per il suo debito a un anno, il bot a un anno. Adesso ha dovuto offrire lo 0,96%, però buona la domanda, migliore anche rispetto a maggio, una volta e mezzo l'offerta. E quindi lo spread poi si è mosso al ribasso a 270 punti, ieri viaggiava a 280 punti, dicevo il rendimento allo 0,96%. In Germania anche lì collocamento di titoli di Stato a due anni, gli Schatz, per 4 miliardi di euro, il rendimento è leggermente salito, prima era lo 0 e quindi al netto dell'inflazione era un rendimento negativo, quindi conviene allo Stato tedesco farsi prestare i soldi visto che il rendimento è negativo. Adesso siamo allo 0,18%, che tenendo conto dell'inflazione resta sempre un rendimento negativo. Domanda molto buona, l'offerta era di 5 miliardi in Germania quasi, ne hanno collocati poi 4 miliardi e l'offerta era doppia quasi, 8 miliardi. Per quello che riguarda invece le altre borse, ricordo che ieri Wall Street ha chiuso negativa di uno 0,77%, mercati internazionali che restano delusi per il Giappone, per la inazione, per l'immobilità della banca centrale giapponese. Tokyo infatti ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati e non ha annunciato nuove misure di stimolo. E questo fa pensare che le banche centrali a livello mondiale, quindi la Banca del Giappone, Bank of Japan, Federal Reserve in America, forse anche la Banca Centrale Europea, stiano concertando una ritirata o comunque una minor presa a livello di politica monetaria, in vista tra l'altro delle prossime riunioni della Federal Reserve 18 e 19 giugno. Questa mattina Tokyo com'è andata? Avvio molto debole, poi alla fine riesce a arginare le perdite, lo yen ripiega leggermente, a quel punto Tokyo ha chiuso lo 0,40, con un calo dello 0,40%. Milano, dicevamo, più 0,20, bene Autogrill più 2,14 come Mediaset, A2A più 1,60, Ansaldo STS più 1,5 come Parmalat. Chi va male invece? La Popolare di Milano perde il 2,90%, Fiat il 2,60, Azimut l'1,30 come Prismian, Monte dei Paschi meno 1,1 come G-Tech, l'1% lo perde Telecom Italia, ma anche ST Microelectronics e Atlantia, ossia l'ex Autostrade per l'Italia. Ancora i numeri per intervenire sia al telefono come sempre in questo programma che via SMS 800 24 00 24, e invece 349 238 6666. Sì, lo dico subito all'ascoltatore, saremo in diretta anche con Focus Economia alle 17, non è che siccome faccio Salvadanaio sfango il programma del pomeriggio, non funziona così. Adesso subito intanto il tema di questa puntata. Dicevo già nel corso del GR i nuovi bonus casa, perché dopo un percorso un po' travagliato il decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri ha stabilito nuovi aumenti e proroghe per i bonus fiscali relativi alla ristrutturazione da un lato e al miglioramento energetico degli edifici dall'altro. Sono due sostanzialmente le categorie, da un lato l'eco bonus e quindi detrazione IRPEF valida per tutti gli interventi legati all'efficienza energetica, che è una detrazione anche più forte, passa dal 55 al 65%, prorogata fino al 31 dicembre per i privati, ma fino al 30 giugno 2014 per i condomini. Questo è un fronte. L'altro fronte, per quello che riguarda invece le ristrutturazioni normali, quelle non, diciamo, che non comportano necessariamente una maggiore efficienza energetica, beh, anche qui resta il bonus del 50% per tutto il 2014. 13, e si affianca anche un nuovo incentivo per l'arredamento delle aree abitative ristrutturate. Faremo il punto con voi e con i nostri ospiti su questi temi, sono già arrivate numerose email. Ripeto, scrivete e prenotatevi per quello che riguarda le telefonate. Subito però la scheda che spiega meglio di come ho fatto io tutte le novità contenute nel decreto legge del governo. È pensato per dare la possibilità a quanti non l'avessero già fatto di migliorare l'efficienza energetica della propria abitazione, ma anche per recepire una direttiva europea in materia di prestazione energetica nell'edilizia. E dovrebbe produrre, secondo le stime del Ministero dell'Economia, un aumento del PIL dello 0,1%. Si tratta del cosiddetto ecobonus per l'efficienza energetica, la detrazione IRPEF per chi effettua lavori di miglioramento della propria abitazione, che è cresciuta a partire da giovedì scorso, passando dal 55 al 65%. L'incentivo aumenta per effetto di un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri e sarà valido fino al 31 dicembre 2013 per i privati. I condomini potranno usufruire invece di una proroga di un anno e avranno tempo quindi fino al 30 giugno 2014 per approfittarne. Al prolungamento di questi benefici fiscali si accompagna anche un'altra proroga, quella per il bonus dedicato ai lavori di ristrutturazione ordinaria, come l'apertura di porte e finestre o il rifacimento di tetti e pavimenti. Dallo storico 36%, questi lavori erano recentemente passati a godere di uno sconto del 50%, valido fino al 30 giugno e ora rinnovato per 6 mesi e quindi fino alla fine del 2013. In questo caso resta valido il tetto di spesa massima su cui può essere applicata la detrazione, fissato a 96.000 euro. Un'altra novità riguarda poi l'acquisto di mobili destinati ad arredare gli edifici ristrutturati. Anche in questi casi si potrà approfittare di un risparmio del 50% ai fini IRPEF, su una spesa massima di 10.000 euro per unità abitativa, nella speranza di dare un po' di respiro insieme a quella dell'edilizia anche all'industria dell'arredamento. Chiaro infatti che l'obiettivo è da un lato rendere più fattibili questi lavori per le famiglie, ma dall'altro anche cercare di dare un incentivo ai vari settori. Ecco perché parlavamo del mobilio arredo, arredamento, oltre che dell'edilizia. Diciamola tutta, poca cosa rispetto all'aumento dell'IVA. Oggi sentivamo nel corso del GR le preoccupazioni anche della Confcommercio. Comunque, molti temi e soprattutto i dettagli di questo decreto legge. E solo che se mi abbassate questa base, me ne date una di quelle che piacciono a me, io mi risento anche più a casa e partiamo anche subito con gli ospiti per parlare sia appunto di ecobonus ma anche di ristrutturazione ordinaria. Sveglia, svegliamo tutti con questa base. Allora, grazie Cristiano Dall'Oste del Sole 24 Ore. Buonasera Cristiano, anzi buongiorno, buonasera. Buongiorno. È l'abitudine. Ciao Cristiano e grazie buongiorno. Anche a Marco Zandonà, che è direttore dell'Ufficio Fiscalità Edilizia dell'ANCE, quindi l'Associazione dei Costruttori Italiani ed esperto di questioni fiscali per il Sole 24 Ore. Buonasera anche a lei Zandonà e buona Davide, con buonasera. Buongiorno, prima o poi arriverò a dire buongiorno anch'io. Allora, per quello che riguarda le principali novità, Cristiano, io le ricordavo velocemente, ma in realtà abbiamo tutto il fronte degli sconti del 55% e dell'ecobonus 65%, con delle differenze tra condominio, ma ci sono anche degli elementi in più per il terremoto del 2012 e il bonus per immobile. Allora andiamo con ordine, ecobonus e condominio. Allora, cosa succede? Succede che la detrazione del 55%, quella che diciamo esiste ormai da 7 anni, a partire dal 6 giugno, quindi da giovedì scorso in sostanza, è aumentata al 65% di percentuale appunto di recupero fiscale. Sono sempre 10 anni, ma è aumentata di 10 punti la percentuale. I lavori sono praticamente gli stessi, quindi rientrano il cambio di caldaia con caldaia a condensazione, le coibentazioni e l'isolamento termico, l'installazione di pannelli solari, il cambio degli infissi, che è di gran lunga il lavoro più popolare, almeno per quello che si è visto negli ultimi anni, e la riqualificazione globale degli edifici. Questi sono i lavori. Poi, come ricordavi tu già in precedenza, abbiamo due scadenze, cioè la scadenza del 31 di dicembre per gli interventi sulle singole abitazioni private, anche sugli alloggi, purché si trovino anche nell'ambito del condominio, oppure al 30 giugno del 2014 per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni condominiali, che vuol dire ad esempio facciate per quanto riguarda le coibentazioni, i cappotti termici, i sottotetti, anche tutta la parte dell'impiantistica, quindi le caldaie per il riscaldamento centralizzato e così via. Cosa importante da dire è che siccome si tratta di detrazioni rivolte a soggetti privati in questo caso, quello che fa fede è la data di effettuazione del bonifico di pagamento con cui si va a pagare l'impresa che ha eseguito i lavori. Nel caso del condominio, precisazione importante, a fare riferimento è il bonifico che fa l'amministratore alla ditta, quindi non i singoli pagamenti dei singoli condomini, che possono anche avvenire in contanti o con altre modalità, o con assegno, eccetera, ma Ma il proprio il pagamento bonifico dell'amministratore. bancario, quindi non l'assegno in sé. No, anzi, precisiamo anche questa cosa, non un bonifico qualsiasi, ma un bonifico di quelli che vengono chiamati così parlanti, cioè un bonifico con un modulo apposito, si può fare anche online, però bisogna stare attenti a scegliere il modulo corretto, perché contiene il codice fiscale di chi effettua il pagamento, la partita IVA dell'impresa e la causale, che sostanzialmente sono gli estremi della Allora, il legge. bonifico parlante, questo Sì. no, è un elemento assolutamente importante perché uno a naso se no pensa che basti ma che faccia fede l'assegno o il bonifico del privato, attenzione nel caso del condominio è il bonifico che fa il condominio stesso e che fa fede come data. Esatto. Questo per quello che riguarda Ecobonus, sulla ristrutturazione abbiamo invece 6 mesi di proroga con un'IRPEF detratta al 50%. Esatto. Per le ristrutturazioni la percentuale rimane la stessa, cioè quella che è stata introdotta a partire dal 26 giugno del 2012, quando è stato varato il decreto sviluppo dell'anno scorso. Quello che cambia è semplicemente il prolungamento della data, cioè questa detrazione del 50% andava a scadere al 30 di giugno, viene invece prolungata fino al 31 di dicembre, quindi sostanzialmente c'è più tempo per effettuare i pagamenti. I lavori sono gli stessi, sono quelli diciamo del vecchio 36% per intenderci, della formulazione originaria, quindi rientrano tutte le ristrutturazioni in ambito domestico, pensiamo al rifacimento del bagno, al rifacimento dell'impianto elettrico, anche il cambio degli infissi se non hanno le prestazioni energetiche per poter rientrare nell'ecobonus. Ma vi rientrano anche una serie di lavori a cui magari non si pensa, ma che sono comunque agevolati dalla legge. Per esempio, tutti quegli interventi per prevenire il compimento di atti illeciti, quindi l'installazione di una porta blindata, di inferriate alle finestre, e ancora, le opere per la messa in sicurezza degli impianti, quindi anche, la sostituzione di un tubo del gas difettoso per quanto riguarda la cucina, oppure Quello va l'installazione. tutto in detrazione al 50%. Quello può andare tutto al 50%, esatto. E anche qui fino al 31 dicembre, giusto? Esatto, qui Dal c'è da dire primo una cosa. luglio al 31 dicembre. No, già da oggi Già in da oggi. realtà, già da oggi al 31 dicembre. C'è da dire una cosa importante, che ovviamente il 50% vale anche per i condomini, ovviamente, Certo. per le ristrutturazioni diciamo non destinate al risparmio energetico, ma le ristrutturazioni normali, però in condominio c'è una specificità in più, cioè che sulle parti comuni condominiali il 50% agevola anche la manutenzione ordinaria. Quindi per intenderci, una banale tinteggiatura, se la faccio in casa mia, non dà diritto al Ma se 50%. la fa il condominio, sì. Se la faccio sull'androne condominiale o sulla facciata, allora sì. Allora, vorrei sentire anche su altri dettagli, perché non, questo è il quadro di insieme. Il dottor Zandonà, due sole battute, poi però prendo anche qualche ascoltatore all'800240024, Anna da Milano è la prima. Però ancora due cose, Cristiano. Il bonus per le misure antisismiche, bonus del 50%, e se riusciamo a dire anche una cosa sugli acquisti degli arredi. Allora, per quanto riguarda il 50% è previsto per le opere anche di messa in sicurezza statica degli edifici, quindi il rinforzo di edifici che non hanno subito danni, ma poi può essere previsto, a condizione che ci sia stata una dichiarazione dello stato di emergenza, quindi un provvedimento ufficiale del governo, anche per il recupero degli edifici colpiti da calamità naturali, non soltanto quindi terremoti, ma anche per esempio le alluvioni che ultimamente sono state molto comuni e hanno creato parecchi danni. Quindi c'è questa possibilità. Invece per il bonus sugli arredi, questa è una novità che ritorna, nel senso che c'era già stata un'edizione nel 2009, si dice sostanzialmente che chi ha effettuato lavori agevolati al 50% o effettua lavori agevolati al 50%, ovviamente non in ambito, come dire, non in ambito vecchio 36, ma parliamo di nuova detrazione, ha diritto a uno sconto sempre del 50% fino a una spesa massima di 10.000 euro per acquistare mobili destinati all'arredo insomma, dell'abitazione che ha ristrutturato. Allora, per quello che riguarda invece i lavori già iniziati, da un lato, e la somma massima, chiamiamola così, che si può portare in detrazione, vorrei capire con il dottor Zandonà, i nuovi bonus valgono anche per lavori già iniziati, da un lato, e dall'altro, i limiti di spesa, è vero che sono ridotti dallo scorso 6 giugno, ma l'importo massimo delle detrazioni resta uguale? E dunque, qui bisogna distinguere a seconda del bonus che io mi prendo. Il bonus, una cosa è il discorso sul bonus energetico, una cosa è il 50% sugli interventi edilizi. Effettivamente, per quanto riguarda il bonus energetico, diciamo che la norma è entrata in vigore il 6 di giugno. Quindi che cosa vuol dire questo? Che si applica, quindi non dal 1 luglio come era stato detto originariamente, ma dal 6 di giugno, in questi casi tutti gli interventi che sono in corso ovviamente al 6 di giugno del 2013 fruiscono della maggiore detrazione per il risparmio energetico, quindi del 65% piuttosto che del 55%. Questo come regola di carattere generale. Ovviamente l'intervento in corso vuol dire che può essere iniziato prima, può iniziare dal 6 di giugno. L'importante è che non sia ultimato, perché se l'intervento è ultimato, siccome poi lo spirito della norma è quello di rilanciare attività, di far fare nuovi lavori, se l'intervento è già ultimato, ovviamente, sicuramente non, anche se devo pagare, non dovrebbe essere possibile, anche se qui vale il principio di cassa, vedremo che cosa dirà l'Agenzia delle Entrate. Però l'importante è che l'intervento sia in corso. Se l'intervento è in corso, il contribuente si prende la maggiore detrazione del 65%, quindi qui si creerà uno spartiacque per gli interventi in corso. Le spese pagate con bonifico fino al 5 di giugno fruiscono del 55%, quelle invece pagate a partire dal 6 avranno la maggiore detrazione del 65%. Per quanto riguarda gli importi diciamo per il 65% sono fissati dalla legge, cioè un valore massimo di detrazione che a seconda della tipologia dell'intervento è al massimo 100.000 euro. Per gli interventi più strutturali, quelli di riqualificazione energetica globale, e poi chiaramente sono 60.000 per gli infissi e il cappotto dell'edificio, fino ad arrivare a 30.000 euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione con le caldaie a condensazione. Che cosa succede? Che essendo aumentato quindi l'importo detraibile, la percentuale dal 55 al 65%, ora se è rimasta fissa il valore massimo della detrazione, vuol dire che il limite massimo di spesa si è abbassato. Ad esempio, faccio l'esempio degli infissi, no? Degli infissi è prevista un valore massimo di detrazione di 60.000 euro. Prima del 6 di giugno io potevo spendere chiaramente l'importo massimo 109.090 euro, nel senso che il 55% di questa somma dà 60.000 euro, questo era l'importo massimo. Ora, essendo aumentata la percentuale e essendo rimasto fisso l'importo massimo, il valore massimo della detrazione, è chiaro che si è abbassato, quindi da 109.000 euro per gli infissi massimo spendibili, limite massimo di spesa è diventato 92.000 euro. Quindi così, anche per quanto riguarda tutti gli altri tipi di interventi, si è abbassato il limite massimo di spesa, ma conseguente al fatto che è aumentato l'importo della percentuale di detrazione dal 55 al 65, mentre il valore massimo di detrazione che io mi porto in 10 anni a scomputo nella mia dichiarazione dei redditi è rimasto uguale, quindi va da 100.000, come ho detto, per gli interventi di riqualificazione globale, fino a 30.000, che è la minima per la sostituzione degli impianti di climatizzazione con le caldaie a condensazione. Questo, diciamo, per Questo quanto riguarda è per l'eco bonus. Per quanto riguarda il bonus sulle ristrutturazioni edilizie, è rimasto tutto uguale, chiaramente era già 50 e continua ad essere 50, l'importo massimo di detrazione è 96.000 euro. Quindi che cosa succede? Che il 50% di 96.000 fa 48.000 euro e io me la posso portare a scomputo in 10 anni, ovviamente in sede di dichiarazione dei redditi, per un importo massimo di 4.800 euro di detrazione che mi recupero ogni anno. Ovviamente anche qui l'importo 96.000 euro è complessivo di tutti i lavori ed è da calcolarsi su base annua, nel senso che io se ho già fatto un nuovo intervento, ne faccio un altro, nello stesso anno, in ogni caso l'importo massimo cui commisurare la detrazione è sempre 96.000 euro. Oh, così respiriamo perché sono molte le notizie che ci ha dato dottor Zandonà. E allora so che c'è il meteo, non mi rompete le scatole dalla regia. Voglio sentire prima però Anna da Milano e poi Massimo dalla provincia di Monza, Roberto da Milano. Dai, tutti e tre li facciamo. Anna, buongiorno. Buongiorno. Dunque, buongiorno. Io vorrei sostituire le tapparelle in PVC con altre in alluminio coibentato, TAP Security, mi hanno detto. Volevo sapere se rientra come nella detrazione del 50%, e mi servirebbe la causale, cosa posso mettere, e la descrizione penso che sarà, non so, la sostituzione tapparelle per esempio. Beh, cosa vuole mettere? Comunque adesso chiediamo agli esperti, ma non penso che possa mettere altro. E poi volevo sapere anche se avere nella fatturazione l'IVA il 10% sulla mano d'opera, se c'è un articolo di legge da indicare. IVA il 10% sulla mano d'opera, grazie. Anna, allora Roberto da Milano, poi Massimo da Monza, Alfonso da Cuneo. Allora Roberto, buonasera, buongiorno, dagliela, buonasera. Buongiorno, buongiorno. Senta, allora il mio problema è questo. Sì. Nel condominio dove abita mia madre hanno deciso di cambiare la caldaia, cioè passare al metano, no? E io non ho seguito quello che hanno detto in assemblea, però volevo farlo entro il 30 giugno perché c'era quello sconto a questo punto però non ho capito perché c'è chi dice che è il 50%, chi dice che è il 55%, chi dice che è il 65%. Io a un certo punto non ho più capito niente. Adesso glielo chiariamo noi la caldaia condominiale. Massimo dalla provincia di Monza. Sì, buongiorno Sebastiano. Buongiorno. Volevo chiedere, mi sente? Sì, come no. Volevo chiedere, sento sempre parlare di questi bonus sempre per privati e condomini, ma per le aziende, chi vuole affrontare un efficientamento energetico dei capannoni aziendali, c'è qualche possibilità o sempre zero? Bella domanda, grazie anche a Roberto da Milano, da Massimo dalla provincia di Monza. Alfonso da Cuneo, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione serale, perché la seguo sempre tutte le sere. Che cavolo chiama quest'ora? No, perché ho sentito la sua voce, allora... Allora, si è risvegliato. Mi dica, Alfonso. Niente, volevo chiedere, per quanto riguarda la sostituzione degli infissi, è necessario, come modulistica, è necessario, oltre al bonifico bancario, oltre alla comunicazione dell'Enea, e su questo volevo sapere se la può fare l'interessato stesso, avvalersi del termotecnico, perché mi rivolgo a dei venditori di infissi, c'è chi mi dice che posso farla io stesso la comunicazione all'Enea, c'è chi mi dice che mi devo rivolgere a un termotecnico per poter usufruire dei vari bonus. Grazie. Nice again. 12:42 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Eccezionalmente tutti i numerosi fan di Deborah Rosciani non si sentono in lutto, ci mancherebbe. Allora Cristiano Dell'Oste, inizierei con te per le domande che abbiamo ricevuto. Tapparelle, alluminio, la causale, chiedeva la prima ascoltatrice, e a questo punto attaccare anche l'altra domanda sulla caldaia a sede del condominio, a quanto arriva la detrazione. A me sembrava chiaro, ma comunque ripetiamolo. Certo, certo. Allora avevamo Anna da Milano che sostanzialmente sta cambiando le tapparelle di casa con delle altre di alluminio coibentato, chiede se poteva avere il 50%. Allora la risposta intanto è sì, perché è una manutenzione straordinaria, sta installando diciamo un componente con un materiale diverso, quindi questo rientra nella categoria della manutenzione straordinaria. Poi sulla causale bisogna stare attenti a non fare equivoci, nel senso che la causale non è che il contribuente o il cittadino deve mettersi a spiegare che cosa sta facendo, deve semplicemente riportare gli estremi di legge. Peraltro la modulistica delle banche, sia quella cartacea che quella online, di solito ce l'ha prestampata, quindi la cosa importante è non invertire le causali di 50% o 65%. Nel caso specifico del 50%, la causale poi è il riferimento all'articolo 16 bis del testo unico delle imposte sui redditi, il cosiddetto TUIR, per capirci. Quindi insomma, la questione è abbastanza semplice. Poi c'era il caso dell'ascoltatore, la caldaia del condominio. Della caldaia, esatto, della caldaia condominiale. Lui dice: stiamo cambiando la caldaia, diceva, per passare a una caldaia a gas, e chiedeva quale detrazione. Ecco, qui la domanda, in realtà bisogna capire cosa stanno installando, nel senso che se stanno installando una caldaia a condensazione che ha i requisiti di rendimento richiesti dalle norme sul 65%, la detrazione che spetta è il 65%. Cioè se c'è un risparmio energetico vai sul risparmio energetico al 65%. Se invece stanno mettendo una caldaia che non ha i requisiti tecnici performanti, allora hanno il 50%, perché comunque è una manutenzione straordinaria. Certo. Quindi lo deve sapere. Cioè, in un caso hai, esatto, in un caso hai il 50%, nell'altro, cioè nel caso hai il 65%, se c'è un vantaggio, diciamo, dal punto di vista del risparmio energetico, nell'altro hai il 50%. Zandonà, invece, per quello che riguarda gli incentivi, se sono presenti anche per le imprese, i capannoni, e poi la domanda di Alfonso sugli infissi e il termotecnico. E dunque, per le aziende... Rapidi però, Zandonà. Sì, per le aziende si rende applicabile sicuramente la detrazione del 65%, che si applica anche quindi per gli edifici non residenziali, però l'importante è che si tratti di un immobile strumentale utilizzato direttamente dall'impresa per l'esercizio dell'attività. Quindi non deve essere un bene che possiede da in locazione, non deve essere un bene merce, ma deve essere proprio lo stabilimento in cui esercita l'attività. In questi casi si applica la detrazione del 65%, che si va a accumulare tra l'altro su quello che è l'ammortamento, perché come bene d'impresa tutte le spese vengono portate all'incremento del costo e quindi sono ammortizzabili. E a questo si aggiunge anche la detrazione del 65%. Okay. L'ultima domanda invece riguardava gli infissi. L'installazione degli infissi può fare direttamente tutto il contribuente, diciamo, nel senso che invia all'Enea entro 90 giorni la scheda informativa, che è l'allegato F, quella che può mandare direttamente il proprietario dell'immobile su cui viene eseguito l'intervento. E l'unica cosa ovviamente che il tecnico deve rilasciare un'asseverazione che sulle caratteristiche termiche degli infissi, che non deve essere inviata a nessuno, ma che deve essere tenuta a disposizione nell'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria chieda chiarimenti. Questo è il caso. Poi può fare tutto da solo. :49 di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Allora andiamo rapidi con gli ospiti. Vi faccio una domanda, voglio una risposta telegrafica, così sintetizzo quelle arrivate via SMS. Molte domande sui condizionatori, l'installazione dei condizionatori. Cristiano Dall'Oste, rientrano o non rientrano? Sì o no? Allora, sì, la risposta è sì. I condizionatori possono avere il 50% e insomma, fermiamoci via così. Ok. Vale sempre per te, Cristiano, anche le domande sulle caldaie. Mi sembra di sì con la distinzione che hai fatto prima, se c'è un risparmio energetico al 65, se no al 50, ho capito bene? Esatto, proprio così. Possiamo anche dire che quando insieme alla caldaia si va a fare una termoregolazione e contabilizzazione del calore, cioè le valvole termostatiche, anche questo intervento beneficia della detrazione. Okay. Quindi questa è una cosa importante, perché aumenta la spesa su cui si può applicare la detrazione in ambito condominiale. Ok, grazie. Cristiano, continua, la lavastoviglie. Allora, la lavastoviglie tendenzialmente no, e adesso ti dico perché tendenzialmente. Perché la normativa sui mobili, che poi avrà bisogno di chiarimenti, parla soltanto di mobili. L'edizione del 2009 invece parlava di mobili, elettrodomestici, computer e TV. Il fatto che la legge adesso sia più restrittiva dovrebbe escludere anche gli elettrodomestici a incasso. Attenzione però, perché aspettiamo le istruzioni applicative, speriamo che non arrivino tardi, perché su questa detrazione sui mobili ci sono ancora un po' di punti di domanda. Zandonà, sempre gli sms, li sto riassumendo a grappolo. La porta blindata e molti chiedono sulle tende da sole. Sì, entrambe rientrano come interventi di manutenzione straordinaria sicuramente nella detrazione del 50%. E un ascoltatore che sta ristrutturando i balconi privatamente, ma le pratiche le gestisce l'amministratore, sta pagando con assegni sul conto corrente del condominio, è ok per gli sgravi? Sì, va benissimo, perché è l'amministratore che deve pagare con bonifico bancario. Per cui non importa come paga, diciamo, l'inquilino. Beh, questo è in contanti in teoria. Scusi? Anche in contanti in teoria può pagare l'amministratore. Beh, quindi in contanti sì, con una ricevuta. Sì, poi con la ricevuta certamente, nei limiti di 1.000 euro. Limitiamo al nero, Zandonà. Allora, Marco dalla provincia di Latina, poi Massimo dalla provincia di Milano e poi Mara dalla provincia di Pavia. Marco, rapidi, non invisibili, ma rapidi. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, lavori di ristrutturazione condominiale. Sì. Tempo 2 anni. Per quanto tempo me li posso portare in detrazione? Bella prima domanda. Seconda domanda. Se io dovessi farmi finanziare per non tirar fuori i soldini, posso legare il periodo di finanziamento alla detrazione fiscale? Grazie. Ok, grazie per la domanda. Ascolto anche Massimo dalla provincia di Milano. Buongiorno, dottor Barisoni. Una domanda veloce. Io ho la nuda proprietà d'appartamento, i miei genitori l'usufrutto. Dobbiamo cambiare i serramenti. Volevamo sapere da chi doveva essere fatta la pratica per avere gli sgravi fiscali. Quindi nuda proprietà, serramenti, padre in usufrutto. Ho capito benissimo la domanda. Mara dalla provincia di Latina, di Pavia. Mi scusi, okay. Grazie, benissimo. Volevo chiedere, l'installazione di porta frangifuoco tra il locale caldaia e il garage in un'abitazione unifamiliare, in una villetta, rientra in qualche detrazione e cosa fare? Perfetto. Porta frangifuoco. Perfetto, grazie anche a lei, Mara. Allora, Cristiano, partiamo dall'ultima domanda. Frangifuoco tra garage e caldaia, se ho ben capito. Esatto, ma diciamo che questa può tranquillamente rientrare tra gli interventi per la sicurezza dell'edificio. Poi siamo all'interno di una villetta, quindi un edificio residenziale, e perciò 50% come detrazione e 31 dicembre di quest'anno come data entro cui effettuare la spesa. Ancora, per quello che riguarda invece l'ascoltatore precedente, la casa in usufrutto al padre, se ho ben capito, certo. Cristiano? Certo, ma diciamo che la legge consente in questo caso sia al padre che al figlio di scegliere chi paga e chi beneficia della detrazione. Sono entrambi titolari di un diritto reale, quindi l'importante è che ci sia allineamento tra l'intestatario delle fatture dei lavori e colui che esegue il bonifico, insomma, per evitare problemi. Se il figlio, che pure ha la nuda proprietà, vuole beneficiare lui della detrazione, si fa intestare le fatture e fa i bonifici. Allora, Zandonà, per lei invece la prima domanda, l'abbiamo fatta a gambero, come ultima, deve incominciare i lavori e finisce fra 2 anni, il pagamento finisce fra 4, insomma è un caso un po' delicato, prego. In ogni caso vale il principio di cassa, e quindi nel senso che io ogni volta che pago poi quei bonifici che faccio nell'anno me li porto in detrazione nei 10 anni successivi, quindi l'anno nuovo farò altri bonifici e nei nuovi 10 anni successivi, quindi sostanzialmente il secondo anno avrò la prima rata della, cioè il terzo anno avrò le due rate di quello che ho pagato un anno e poi avrò la prima rata di quello che ho pagato l'anno successivo. Okay. E continuerò così e compilerò più righi nella dichiarazione dei redditi per ogni anno. Grazie, è importante anche questa risposta. Grazie quindi a Marco Zandonà, direttore dell'Ufficio Fiscalità Edilizia del Lance ed esperto di questioni fiscali per il Sole 24 Ore. Grazie anche al collega Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore. Grazie a voi in ascolto per aver accettato e sopportato questa conduzione non a livello della collega Deborah Rosciani, che tornerà, non vi preoccupate. Noi ci risentiamo alle 17 per un'altra puntata di Focus Economia. Vi do solo un aggiornamento dei mercati a chi interessasse, più 0,16% in questo momento Milano. A tutti gli altri invece, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona giornata. Salva Danaio.